Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Matteo Comes in regia. Chiudiamo ufficialmente giù sipario sulla stagione di Palla Spicchi del venerdì, perché ovviamente iniziano gli europei di calcio settimana prossima, quindi ci sarà Gigi Garanzini, ma continueremo, come ovvio, a seguire l'epilogo di questo campionato incerto più che mai, con l'appuntamento della domenica sera dalle 20.30 alle 21 e poi ovviamente con tutti i giornali radio e GR Sport del caso. Per questo gran finale è tornato da noi una voce che conoscono tutti ormai molto bene, anche gli appassionati di calcio, Gerry De Rosa da Sky. Ciao Gerry, grazie. Ciao Carlo, buongiorno. Però questo è l'amore che non si scorda mai, giusto? Giusto. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Gerry, amici sportivi. Ciao buongiorno. Coach. Come stai? Ciao. Tutto bene? Bene. Ascolta, ma semifinali già finite? Con Milano che ieri è andato sul 2-0 con Pesaro e con Siena che gioca... Non dire questa a Pianigiani Scariolo o ti salto in testa, perché abbiamo appena visto il quarto finale che Pesaro è rimontato da 0-2 a vincere la serie a 3-2, quindi e può succedergli tutto nello sport. Poi io pensavo che non avrebbe mai vinto una partita contro il San Antonio, gli Oklahoma City invece hanno vinto di 20 ieri sera, quindi mai dire mai, ok? Però ovviamente sia Siena che Milano hanno fatto il loro dovere, hanno tenuto servizio in casa e quindi si sono messi in buone condizioni. Senti coach, stasera come la vedi invece la partita di Sassari? Sassari può avere ancora la voglia, l'orgoglio per fare un'altra impresa? Mi sembra una serie chiusa, ma a favore di Siena. Innanzitutto bisogna dire questo, giocano in casa, ok? Sì. E che casa, perché c'è un grande pubblico, sempre pieno, non entra nessuno proprio. E poi un campo molto accogliente, nel senso che le tribune sono verticali, c'è cioè come giocano in catino, come si dice. E quindi grande atmosfera per loro. Loro hanno una bella squadra, ben allenata, super allenata dall'allenatore dell'anno che è Romeo Sacchetti. Hanno delle qualità, i due Diner e poi Hosey e altri. Quindi è una squadra di tutto rispetto. Ovviamente non sono profonde come Siena, devono tirare fuori la partita dell'anno se pensano di farcela. Però è possibile, però favorite Siena assolutamente. 800-24-0024 per le vostre idee, le vostre opinioni. Gerry, la tua lettura invece, a cominciare da Milano che hai visto ieri sera al forum. Sì, Milano devo dire che mi ha impressionato, ha avuto nel secondo tempo, la squadra è arrivata a fine stagione in perfetta forma sia fisica che mentale, tutti i giocatori di Scariolo sono pronti mentalmente, chiunque entra fa bene, ieri ha ciccato un po' la Preta Gentile ma non ce n'era bisogno, che hanno giocato bene altri, e mi sembra che abbiano individuato le armi di Pesaro, le abbiano abbastanza disinnescate su tutte le due partite strepitose di Melli che ha annullato Jumaine Jones, ma ieri anche Hickman non è riuscito a fare tanto. Mi rilascio a quello che diceva il coach, Pesaro può far leva sul pubblico, sulla volontà di fare un regalo al pubblico vincendo almeno una partita di questa serie, ha già dimostrato di poter risorgere dopo due sconfitte consecutive, però mi sembra che la lunghezza della panchina di Milano sia la grande differenza rispetto alla serie con Cantù, e quindi secondo me Milano può anche vincere gara 3. Voglio farvi sentire una cosa, un time out diventato ormai molto popolare da questa come dall'altra parte del grande mare. I need a little bit more dose of nasty. I'm seeing a little bit of unconfident, a little hesitation. It's not supposed to be easy. Every round gets tougher. Penetrate hard. Good passes. Shoot with confidence. I want some nasty. Coach. Greg Popovich che li vuole nasty. È il più grande allenatore dell'NBA assolutamente. Sì, ha cambiato un po' il corso di una partita con questo timeout. Lui è un mago in questo, cioè proprio lui ha parlato proprio con una grande franchezza, cioè ogni girone è più difficile di quello precedente, non deve essere facile, ok? Quindi non vedo fiducia nelle vostre facce, voglio vedere un po' di cattiveria agonistica, passa la palla, tira con fiducia. Lui è forse il miglior allenatore del mondo, cioè proprio con tutto rispetto, cioè io metto anche Obradovic, Messina, Scariolo, i nostri Pianigiani, i nostri proprio a livello europeo, però ovviamente è un altro mondo lì, ok? In America lui per me è assolutamente numero uno, e lui sì, ha dato la carica alla sua squadra e loro hanno risposto perché loro rispettano lui, lui rispetta loro, grande credibilità da parte sua che ha vinto 4 titoli NBA. Io stimo ogni cosa che fa lui, veramente un mago. Sì, nella notte non benissimo però San Antonio che ha perso con Oklahoma 102-82, quindi una bella ripassata. Sì, però è vero che nelle prime due partite San Antonio ha giocato un basket fantastico, a me piace moltissimo, gioca San Antonio che mi sembra un po' quella più simile allo stile europeo con tanti pick and roll, però non pick and roll pure semplici, tutti e cinque si muovono alla perfezione. Ci sono stati dei momenti nelle prime due partite in cui veramente il movimento in sincrono di tutti e cinque i giocatori ha toccato la perfezione. Popovic è bravissimo e siccome poi può far leva su tre giocatori di intelligenza cestistica superiore, Parker, Ginobili e Duncan, e lui è in grado di farli di far uscire questa intelligenza al meglio. Dico, Popovic è in grado di farla uscire al meglio. Coach, invece l'altra serie come la vedi, quella tra Boston e Miami? Well, vedo bene Miami, ovviamente c'è proprio tutto il vantaggio. Boston deve vincere 4 su 5, qualche infortunio, squadra vecchia, squadra stanca, molti minuti nelle gambe, nella carriera Kevin Garnett ha più di 50.000 minuti in NBA, però giocano in casa, orgoglio Celtics, Boston può vincere 2 su 2 in casa e dopo diventa una miniserie, 2 su 3, adesso vediamo, molto più equilibrata quella serie lì che San Antonio, però se Oklahoma City vince gara 2, chi lo dice? Gara 4, chi lo dice? Andiamo 2 a 2, però 4 grandi squadre, assolutamente, cioè, le 4 migliori dell'NBA tranne Chicago che senza Derrick Rose non è più Chicago in poche parole. Sì, senti coach, un'ultima cosa, ti faccio la domanda difficile, se Pianigiani e Scariolo si arrabbiano, peggio per loro, non me ne frega niente. Facciamo finta che Milano e Siena siano già in finale, cosa che accadrà con tutto il bene che voglia a Pesaro e a Sassari che sono state meravigliose. Facciamo finta che questa finale, come sarebbe? Well, è chiaro che fino a prova contrario è favorito Siena, hanno vinto 5 scudetti in fila. Hanno avuto il miglior record nella stagione regolare, hanno smaltito l'uscita dell'Eurolega e stanno arrivando anche loro, come Milano, in super forma adesso. Ci abbiamo visto le due partite con Sassari che francamente non mi aspettavo due vittorie di 25-25 in roba così, pensavo molto più combattuto, quindi grande dimostrazione di forza, favorite loro, fattore campo loro, prime due partite in casa, ma Milano giocherà le sue carte se è così, perché Sergio ha fatto veramente un capolavoro di gestione, ok? Lui non è solamente un super coach, lui è super manager, non dimentichiamo che Scariolo è stato non solamente coach a Real Madrid, ma direttore di tutto il reparto cestistico del Real Madrid, quindi un incarico molto importante, e lui sa far manager, ha tenuto la calma durante l'anno, uscito in Eurolega, è uscito nella Coppa Italia, niente, ha puntato per questo e adesso il risultato lo stanno premiando, 12 vittorie in fila, 7 diversi giocatori come massimo realizzatore della partita, media di differenza di 12 punti, quindi la squadra è arrivata qui e possono giocare le sue carte. Io francamente il finale favorito probabilmente sulla carta Siena, 4 vittorie e 3 vittorie, però Milano è capace di vincere almeno 3 partite e anche 4. E quindi avremo finalmente dopo tanti anni una finale. Avremo miglior una finale, miglior finale in anni. Da quando Milano, quando c'è Lino Lardo qui sulla panchina, ha perso la finale contro Fortitudo con questo grande tiro di Ruben Douglas, però questo è stato anche un 3-1, tanto per dire. Però secondo me se veramente vanno in finale sarà la più grande finale forse negli ultimi 15-20 anni. Grazie coach! Ciao ragazzi, ciao coach. Ci sentiamo nel corso dell'estate perché Palla Spicchi si ferma ovviamente lo sport su Radio 24 mai per tutta l'estate. Mi tengo Jerry De Rosa, traffico 80024 0024 se volete intervenire. I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo. Le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate, soffri di alitosi? Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Previenila con una tecnica non invasiva biologicamente guidata e curala con il laser grazie ad Excellence Dental Network. Prenota una visita nella sede più vicina a te all'800 090 106 o su excellencedentalnetwork.com. Non perdere tempo, salva i tuoi denti. 800 090 106. Strade in diretta. Ben trovati, 2 chilometri di coda per un incidente sulla 21 tra Pontevico Robecco e Cremona verso Piacenza. Prudenza, si viaggia su una sola corsia. Altre code dopo un incidente le segnaliamo sulla 14 Adriatica tra la diramazione per Ravenna e Imola in direzione Bologna. Milano si prepara a ricevere il Papa, viabilità rivoluzionata fino a domenica. Oggi pomeriggio intorno alle 16 all'arrivo del Pontefice verranno effettuate chiusure momentanee tra l'aeroporto di Linate e Piazza del Duomo. La stazione metropolitana del Duomo resterà chiusa dalle 16.30 circa. Dalle 10 poi di domani e fino alle 21 di domenica zona a traffico limitato straordinaria che comprende la zona nord di Milano e i comuni di Sesto San Giovanni, Cormano e Bresso. A Milano il perimetro della ZTL comprende importanti arterie come Viale Sarca, Viale Suzzani, via Bauer, via Giuditta Pasta, via Fermi e viale Rubicone. Sempre dalle 10 di domattina, chiusura in tangenziale nord a Milano, sul tratto urbano della A4 e sulla statale 36. Noi torniamo tra mezz'ora. Palla spicchi. Torniamo con Jerry De Rosa. Ti sei divertito a fare il calcio quest'anno? Sì, sì, beh, sì, sì, come no. Come no, però, si è divertito molto, però il basket è l'amore che non si scorda mai. È più divertente. Tra due cose divertenti, il basket è più divertente. Il basket è più divertente. C'è Mirko da Milano in linea che magari vuole partecipare al gioco dei pronostici. Io sono d'accordo col coach, insomma, vedo una finale estremamente equilibrata. E ti dirò di più, non sono così convinto che in questo caso il favore del pronostico vada a Siena. Anzi, mi gioco a Milano. Io ti dico che partono esattamente in equilibrio, Siena dalla sua, oltre al fattore campo, che insomma conterà relativamente a un gruppo che sa come si giocano queste partite, sa come si vincono, e Milano questo lo deve ancora dimostrare, anche se ha i due greci che di partite di questo tipo ne hanno fatte tante. Milano dalla sua ha una fortissima identità di squadra che fino a due mesi fa sembrava lontanissima, e invece adesso in difesa, soprattutto questo si vede, tutti sanno bene cosa fare, ha delle armi in più. Per esempio Melli di questo periodo vale più di Fozis, e nella sfida con Storuk sono veramente curioso di vederlo, sempre se arriveranno in finale, due che stanno già parlando. Però adesso ogni tanto bisogna ricordarlo. La vedo molto equilibrata, con un piccolo svantaggio per Siena, che sono le prime due partite in casa, che secondo me sono pericolose, molto perché pericolose. Una Milano senza la pressione addosso, con la possibilità, può portarne a casa una, allora lì cambieranno molte cose. Rubare il servizio. Esatto. Rubare il servizio. Mirko, Milano. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Dica. Dunque, io avevo una domanda da fare. Prego. Allora, a parte i pronostici, che secondo me finisce 3-0, per Siena e 3-1 per Milano, e la finale 3-0 per Siena. 3-0 per Siena? 3-0, ma netto. 4, guardi che è meglio delle 7. Pesaro ne vince una, allora 4-0 se è meglio delle 7. Che per me Pesaro una la vince in casa e Milano non ne prende una, però per carità, non vado a scommettere neanche un centesimo. Al di là di questo, volevo chiederle una cosa. Sì. Ieri Varese ha fatto con il suo ufficio stampa, ha salutato e ringraziato l'allenatore dicendo che il contratto scade, vabbè, tra pochi giorni. Allora, io ho un auspicio mio personale, non è che c'è la possibilità che Attilio Caia sia il nuovo allenatore? Di Varese? Sì. Boh, se vuole lo chiamiamo e glielo chiediamo. Dai, è una buona idea, perché comunque il comunicato ufficiale di Varese mi è arrivato via mail dicendo che l'ufficio stampa ringrazia Recalcati per il lavoro svolto e termina la cosa. Sì, no, Recalcati non è più l'allenatore di Varese, ma questo è diventato ufficiale, ufficioso lo era già da un po'. Quanto alla nuova panchina di Varese non lo so. Vitucci, Sacchetti, quando si parla di Varese dicono parla tutti sempre. Però Vitucci, ma anche perché la situazione di Vitucci forse è la più definita. Attilio Caia al momento non sa ancora cosa succederà della squadra che ha allenato quest'anno, anche se presumibilmente ovunque in senso geografico giocherà Cremona l'anno prossimo. Caia non credo che sarà più su quella panchina, però di Vitucci insomma c'è stato più tempo per parlarne, è ancora secondo me molto presto. Sì. Sentiamo insieme, giustamente stasera si gioca, sono due semifinali che hanno preso una direzione ben precisa, però questa sera Sassari porta la semifinale per la prima volta nella sua storia davanti al suo pubblico e Meo Sacchetti non può che essere orgoglioso di questo. Non ho le date, però l'ultima partita che noi abbiamo perso in casa l'abbiamo persa con Siena, non si può dire sicuramente, l'abbiamo incontrata due volte in campionato, due volte in playoff, una volta in Coppa Italia, in situazioni rimaneggiate e tutto, però sicuramente è una squadra che è arrivata a questo punto per l'esperienza che ha, una corazzata, ma noi abbiamo, vediamo se la nostra coperta di Linus del nostro campo ci riesce a far aumentare la fiducia in noi stessi ancora di più. Così Meo Sacchetti. Guarda, giocare a la serie è bellissimo, è un ambiente fantastico. Comunque per chi ama questo sport, c'è tantissimo rumore, c'è tantissimo entusiasmo e indubbiamente questo i giocatori lo percepiscono e giocano le loro migliori partite. Sicuramente Siena, per vincere già da gara 3, dovrà giocare da miglior Siena possibile, quindi una grande partita da giocare, perché comunque Sacchetti trasmette orgoglio oltre che grande entusiasmo ai suoi giocatori, e la Dinamo lo tirerà fuori tutto. Va sottolineato il fatto che Sassari si gioca una semifinale di campionato a un anno circa da un campanello d'allarme enorme che era suonato, perché questa squadra addirittura sembrava dovesse sparire. E questo, secondo me, nell'annata di Sassari non va dimenticato, insomma, rende il miracolo ancora più incredibile. Senti, io ti voglio girare invece un paio di sms. Uno è questo: 349-238-6666, numero per i messaggi. Il KO di Cantù è solo colpa degli infortuni o c'è dell'altro? Domanda un tifoso canturino. Tra l'altro leggo oggi sui giornali che i giochi sono ancora da scrivere per quanto riguarda la composizione della prossima Eurolega, quindi Cantù potrebbe rientrare dalla porta di servizio proprio in Eurolega. Sì, la composizione dell'Eurolega di questi tempi ogni anno è una sorta di rebus che si risolve solamente nel momento in cui c'è l'elenco completo delle squadre campioni dei vari paesi. A quel punto lì il ranking viene fatto in maniera completa. Adesso sinceramente fare previsioni è difficile, anche perché poi c'è il discorso della wild card eccetera, quindi comunque Cantù potrebbe rientrare nei giochi, soprattutto se, come sembra, né Sassari né Pesaro arriveranno in finale. In quel caso lì la finalista avrebbe il posto in Eurolega. Tornando alla domanda, secondo me solo colpa degli infortuni, se non il 100% il 95%. Sì, Cantù è tre mesi che gioca sette e mezzo giocatori, soprattutto ha chiesto uno sforzo smisurato al suo uomo importante che è Martin Lunen, che secondo me è arrivato alle ultime due partite che contro Pesaro stremato. Nell'ultima addirittura, nel quarto, l'ho visto tentare dei movimenti uno contro uno e quasi non riusciva a saltare. Non a caso le migliori partite di Jumaine Jones di questi playoff sono state quelle, però anche tutti gli altri hanno tirato molto la carretta, come si sente dire, e giocare una partita ogni due o tre giorni dopo due o tre mesi, esatto, che tiri la carretta, diciamo che ha pagato nel complesso lo sforzo di una meravigliosa Eurolega, come era nei, sì, e soprattutto l'ha pagato in termini di infortuni, di consunzione, sì, certo, fisica, di energia, l'assenza dei Mitzov e Shermadini sono insomma due uomini da quintetto e due Mitzov e uno che ti fa due o tre ruoli e permetteva anche ad altri di riposare, quindi l'assenza di Mitzov è stata particolarmente pesante. Come immagini il futuro di Cantù, lasciando stare il discorso dell'Eurolega? Ma mi sembra che nel panorama del basket italiano, se c'è una squadra solida, questa è Cantù. È chiaro che guardando le varie carte d'identità bisognerà rinnovare qualcosa, anche se i giocatori tra Mazzarino, Basile e Marconato qualcosa possono ancora dare, però questo campionato insegna che probabilmente forse gli infortuni sarebbero stati sopportati meglio con qualche giocatore un po' più fresco in grado di aumentare il proprio rendimento proprio in questo periodo. E poi va risolto il problema del playmaker, perché insomma si è visto che Doron Perkins con in mano il pallino non è adeguato, così come è adeguato invece quando entra dalla panchina, certo, può cambiare il ritmo eccetera, e bisogna vedere cosa farà Cantù e Trinchieri con Cinciarini, che in questi playoff non è uscito benissimo. E Trinchieri ha detto, mi ricorda Franco Piattani dalla redazione, mi ricorda la frase che ha detto Trinchieri: mi sento in debito per la sconfitta nella serie con Pesaro e io odio avere debiti. Sì, però devo dire sinceramente che quando dopo gara 2, che ha lasciato a 47 punti, sì, Pesaro sembrava veramente tutto fatto, tu avevi giocato a partita difensiva strepitosa, però poi le cose cambiano. Io dall'inizio che lo dico, dall'inizio della stagione, Pesaro una bruttissima bestia da affrontare nei playoff. Ho la sensazione che anche per questa brutta bestia la benzina sia un po' agli sgoccioli, almeno a vedere le due partite contro Milano. anche perché comunque superare l'ostacolo Cantù, insomma, è stato un'impresona, sicuramente, anche dal punto di vista fisico. Sicuramente è costato, però per come sta giocando i tre americani, molto a corrente alternata, la sensazione è proprio quella. Però ti ripeto, era la stessa sensazione che c'era dopo gara 2 a Cantù, sì. Quindi vedremo, insomma. Mai dire gatto, anche se, non ce l'hai. La differenza grossa, secondo me, che Cantù erano in 7, 7 e mezzo, Milano sono in 10, 11, e quindi come le alternative ce l'hai. Mai dire gatto, mai dire gatto. Scariolo sarà anche bravo, ma con una proprietà che ti compra il mondo, e quando dalla panchina chiunque fai entrare va bene, allora sono bravi tutti. Non sono d'accordo con Jack da Pesaro, perché non è vero che, insomma, sono bravi tutti a vincere con Real Madrid, sono bravi tutti a vincere con sto parlando di calcio, sono bravi tutti a vincere quando hanno le squadre forti. Alla fine vince sempre uno solo, rimangono tanti altri che hanno speso molto, che hanno fatto squadre forti e che non hanno vinto. E poi questo discorso qui 2 mesi fa lo si faceva al contrario. Bravissimo. Gli uomini erano gli stessi, Nicolas se n'era già andato e Scariolo era sulla graticola a un certo punto. Infatti invece Stasera tra Sassari e Siena e domani tra Pesaro e Milano. Questo ascoltatore scrive: dove posso vederle non avendo Sky? Ma non, quest'anno non serve Sky, le può vedere sulla Rai, su Rai Sport. Vedete quale pubblicità, cioè qual è l'impatto, no, del basket in televisione quest'anno. Vabbè, comunque, allora, l'ascoltatore voleva sapere se Attilio Caia andrà ad allenare Varese. L'ho chiamato nell'intervallo, mi ha detto magari potesse andare. Quindi ne sappiamo quanto prima. Ne sappiamo quanto prima, probabilmente ci andrà Frank Vitucci. Intanto Attilio Caia commenta appunto le partite per la Rai tra Milano e Pesaro, una Pesaro sulla cui panchina, bah, chi lo sa, stiamo facendo del fantamercato di allenatori, tanto vale tutto. Ah sì, beh, sul mercato, dopo che Zeman è tornato alla Roma. No, però credo che Dalmonte abbia fatto talmente bene che... No, sono d'accordo con te. Poi comunque la situazione del basket italiano per molte squadre non si sa quello che succederà da qua a un mese, quindi certo. Credo che il discorso dell'allenatore per molte squadre sia addirittura prematuro e, diciamo, spiace un po' dirlo, ma in realtà è così, insomma. Adesso bisogna pensare per molti a iscriversi, poi vediamo e poi trovare i soldi per fare la prossima stagione, perché questo è il discorso, perché diverse tra quelle che in classifica stavano tra il nono e il sedicesimo posto si presenteranno come d'abitudine ai nastri di partenza senza un dollaro in saccoccia, perché così è la storia del basket italiano ed è inutile insistere o far finta di niente. Noi continuiamo a dirlo e continueremo a farlo. C'è Giorgio che scrive: per la spettacolarità del campionato non era meglio giocare le serie a campi alternati invece che 2 di fila in casa della prima? È una questione vecchia come il mondo, ci sono pro e contro per tutte e due le formule. È evidente che questa è stata scelta per motivi prettamente logistici. Adesso quest'anno c'è Sassari, pensate se avesse dovuto fare avanti e indietro Sassari ogni 2 giorni, sicuramente non ci sarebbe stata la migliore condizione per avere la miglior squadra in campo, perché avrebbe passato tempo solo a viaggiare. È successo qualche anno fa quando Capodorlando, sempre di Sacchetti, è arrivata ai playoff, che ha fatto avanti e indietro con Avellino, quindi non si è mai allenata durante i playoff. Avellino era fortissima, quell'anno avrebbe vinto lo stesso, però da lì in poi si è pensato di utilizzare questa formula, che ha sicuramente degli svantaggi, secondo me sono degli svantaggi seri per la squadra, che ha il vantaggio del fattore campo. Sì, sì. Però non vedo sinceramente altre soluzioni. Si potrebbe forse, ma qua subentra i problemi dei palazzetti a disponibilità, nel momento in cui si forma una serie in cui le due squadre sono vicine, pensare magari per la finale una cosa del genere, però mi rendo conto che sia anche organizzativamente impossibile, sì, cambiare la modalità della formula playoff in corso. No, ma poi la duttilità della Lega in termini di collocazione delle partite non è il massimo della vita, perché se dovessero finire 2 serie stasera 3-0, dovremmo comunque aspettare un sacco di inutile tempo per vedere la finale, e poi andremo ovviamente a scontrarci contro gli europei di calcio fatalmente, neanche tanto, perché si poteva evitare con una programmazione un po' più flessibile, diciamo così. Vuoi ricordare, lo faccio con enorme piacere e con le lacrime agli occhi, anche perché lo conoscevo bene, voglio ricordare nella maniera più assoluta e levare una preghiera a Martin Colussi, che è morto in un incidente stradale il 27 maggio. è un giocatore, un ragazzo che conoscevo molto bene personalmente, avendo giocato a lungo nella squadra della mia città che è Pavia. E beh, insomma, mi fermo lì per ovvie ragioni, perché devo continuare a parlare. A proposito, Jerry, prima di parlare con Federico da Roma, queste due in casa sono una distorsione della Serie A7, no? Serie A7 che si è pensato bene di riproporre l'anno prossimo per tutti i playoff, e secondo me nel mondo del basket attuale, per com'è oggi la pallacanestro italiana e, aggiungo, europea, è la cagata del secolo. Detto, diciamo, con un giro di parole. Detto proprio con un giro di parole. No, io non ho sentito una persona favorevole tra i commentatori, diciamo, anche no, tra i semplici tifosi, a questa innovazione. È stata spiegata come la necessità, guarda, di fare un incasso in più. Attilio Caia non è contrario, è stato qui la settimana scorsa, perché dice in fondo si tratta di un paio di partite in più. Secondo me è un allungamento anche del pathos, a parte il fatto che poi bisogna trovare i soldi per andare a più partite, e questo è un altro discorso. Ma è un allungamento del brodo che non può far piacere. Poi in controtendenza a quello che hanno fatto tutte le leghe europee, quindi anche secondo me già la serie A5 è sufficientemente lunga per stabilire, mm-hmm, perché poi quello che dovrebbe interessare è il valore sportivo. La serie A5 fa vincere la squadra più forte ed è sufficiente, non c'è bisogno per far vedere qual è la squadra più forte che si arriva a 7, perché secondo me poi le scelte devono partire da questo presupposto. Chiaro, prima che sulla serie, se poi vogliamo aggiungere dell'ali, allora giochiamole a 3, e allora lì sì, è chiaro che dal punto di vista del risultato sportivo magari è un po' più penalizzante, però è premiante dal punto di vista dell'incertezza del, certo, risultato. È lo stesso discorso delle Final Four, non sono certo la cosa, bravo, più giusta dal punto di vista sportivo, però sono la cosa più divertente e emozionante che c'è, almeno a mio parere. Bisogna mettersi d'accordo, prendere una strada. Sicuramente quella di fare tutte le serie playoff a 7 partite mi sembra un'assoluta follia, visto il momento, visto la difficoltà comunque per le squadre di giocare ad un'intera stagione. E visto che ai playoff le squadre arrivano comunque molto stanche, e la serie di Cantù è stata la dimostrazione, qui si perde veramente poi il confronto, cioè si allarga ulteriormente la forbice tra la squadra molto forte e con, diciamo, un budget importante nei confronti delle altre. Bravissimo, tra le altre cose. Federico, Roma, buongiorno. Sì, buonasera, anzi buon pomeriggio. Dica. Vabbè. Sono solidale col discorso della gran cagata delle 7 gare. Sì, sì. Ok, sono solidale. Un commento, volevo da voi un'idea sulla probabilità, neanche troppo remota, che il basket di vertice a Roma scompaia. Cosa ne pensate? Pensate di dire? E soprattutto, se era logico far arrivare questa situazione a questo punto. Grazie. Grazie a lei, Federico. Allora, il basket nella capitale a rischio, come a rischio ad Avellino, a Cremona, a Treviso, a Teramo, a Montegranaro, a Caserta, per tutte queste è a rischio, no? Roma ha una situazione particolare. La mia idea è che Totti continuerà ancora un anno dopo essere arrivato alla fine di questo giro di carte. È vero che Totti l'ha già annunciato diverse volte di voler abbandonare, poi spinto dall'amore che ha per questo sport e per questa squadra è sempre tornato sui suoi passi. Quest'anno mi sembra una cosa indubbiamente molto seria, mi sembra molto deciso a farlo. Io credo che alla lunga paghi il fatto che in questi 12 anni, lui era arrivato nel 2000, non sono arrivati i successi che si aspettava, e più che altro sono arrivate molte critiche, e in questo senso si sia pagata la mancanza molto spesso di chiarezza nella gestione della società, esatto, i continui avvicendamenti, la difficoltà a capire chi realmente faceva la squadra, io i tanti allenatori, la, i tanti la giocatori. La sensazione dall'esterno che Roma fosse un mostro a molte teste. E infatti probabilmente lo è, e secondo me la dimostrazione sta nel fatto che il momento più alto, cioè nella finale con Jasmin Repić, quando ha messo seriamente in difficoltà il Montepaschi nel 2008, adesso sto andando a memoria, la memoria mi sta tradendo, ma mi sembra proprio 2008, lì era il momento di insistere, di andare avanti, di credere, di proseguire su quella strada, e invece se non si è ricominciato da capo, ma nel giro di pochi mesi è bastato qualche risultato negativo per mandare un po' a monte tutto quello che era stato fatto. Secondo me, se lì invece la strada intrapresa fosse stata un'altra, staremmo parlando di qualche altra cosa. Però il problema è molto serio, perché siamo ormai a giugno e di Roma non solo si sa solo che Totti ha fatto quella conferenza stampa, ma non si sa nient'altro. Sì. Quindi se si sta muovendo qualcosa, sta succedendo in maniera davvero molto sotterranea, e anche questo mi stupirebbe un po', perché certo, quello che succede a Roma di solito poi in qualche modo salta fuori. In qualche modo salta fuori per la storia del Senato romano di qui sopra. C'è un ascoltatore che scrive: Pianigiani riesce a lamentarsi con gli arbitri avanti di 20 punti per un fallo sacrosanto, scrive un ascoltatore di Varese. Mi interessa relativamente questo messaggio, mi interessa invece immaginare la finale dei due allenatori, perché la battaglia verbale è iniziata tra l'altro da questi microfoni con Sergio Scariola, la famosa intervista dell'Aria Rancida, da diverso tempo, e non credo sarà una finale banale nemmeno mediaticamente. Non credo sarebbe, aspetta che uso il condizionale, una finale banale anche mediaticamente. Sì, io sono sicuro che ci sarà da divertirsi anche quando nei giorni di pausa delle partite. E spero, e sono sicuro, conoscendo i personaggi, che tutto rientri davvero nella dialettica che c'era ai tempi tra Bianchini e Peterson, per esempio, no? Ma io mi auguro che ci sia però dialettica, perché sì, fino ci deve essere, ma che rimanga nei binari. Sì, certo, no, perché insomma l'atmosfera è abbastanza calda, diciamo, e insomma ognuno deve fare il proprio mestiere. Pianigiani fa bene arrabbiarsi per un fallo avanti di 20, perché quello è il suo mestiere, lo deve fare, deve essere tutto fatto per il bene della squadra, per cercare di dare una mano alla squadra a vincere. Lo si può fare anche parlando con la stampa, anche lamentandosi, non si deve mai trascendere, e io sono sicuro che, visti i personaggi di cui stiamo parlando, non succederà. Però un minimo di livello di attenzione ci deve essere, perché comunque la stagione ha creato un'atmosfera abbastanza calda fra queste due squadre. C'è un ascoltatore che mi manda un messaggio che ti giro: migliorare per sottrazione, Milano contro Nicolas come Miami con Chris Bosh, hanno sviluppato il loro gioco e i risultati partendo dall'addio, che poi non è addio, dall'infortunio a due top player. Sei d'accordo, soprattutto per quanto riguarda la Miami che stiamo vedendo nei playoff? No, su Miami no, non sono d'accordo, nel senso che a meno di non stabilire che Joel Anthony e Turiaf come minimo siano più forti di Bosch, diventa una tesi difficile da sostenere, e soprattutto noi non sappiamo che cosa sarebbe successo con Bosch. Magari Miami avrebbe vinto ancora più facilmente, o magari no. Io credo che Bosch sia assolutamente necessario, altrimenti Miami prima o poi ferma la sua corsa. Voi, allargo la domanda a Jerry De Rosa, pensate che invece l'altra serie, quella tra San Antonio e Oklahoma, sia iniziata davvero stanotte, Jerry? Secondo me no, nel senso che ci stava per San Antonio una partita così, dopo le prime due, giocate secondo me davvero molto bene, però l'impronta alla serie è stata data secondo me dalle prime due partite giocate a San Antonio, che Oklahoma, con tutto il talento che ha, potesse fare una partita del genere all'interno della serie, ci stava, e come, ma secondo me già da gara 4 cambieranno un po' le cose. Flavio? Una delle loro possibilità vince Oklahoma City, non dico nettamente, ma vince Oklahoma City. È più probabile che, vicino al massimo delle sue possibilità, giochi San Antonio su 7 partite, e quindi di un capello credo che la possa vincere San Antonio. Anche qui oggi ho la maniera di guardare avanti, infischiandomene un po' dello sviluppo delle serie. Ipotizziamo una finale San Antonio-Miami, Flavio. C'è troppa disparità fisica, cioè San Antonio può subire davvero così tanto lo strapotere fisico di Miami fino a non venirne a capo, oppure no? No, strapotere fisico proprio mi sembrerebbe l'ultima preoccupazione, onestamente. San Antonio può subire lo strapotere fisico dei migliori Lakers, per dire, con Gasol e Bynum, o comunque di una squadra che vada all'interno dell'area a vedere che cosa succede quando ci sono i quintetti con Bonner, con Dio, con lo stesso Duncan. Per cui no, non ne farei una questione di strapotere fisico, ne farei una questione diversa. La difesa di Miami, per come organizzata e per il suo personale, è una delle poche che può provare a coprire il campo in orizzontale quando attaccano gli Spurs. Sei d'accordo, Jerry? Sì, mi rifaccio anche a quanto diceva prima Flavio, che dipenderà molto dalla presenza o meno di Bosch e da che tipo di condizione avrà, se sarà un Bosch che può reggere questo tipo di ritmo. Io penso che però alla fine la somma dell'intelligenza cestistica di San Antonio possa anche prevalere, anche se si tratta di una serie molto, molto dispendiosa. Secondo me in questo momento non c'è una squadra di quel livello dal punto di vista dell'insieme dell'intelligenza cestistica. Io credo che San Antonio alla fine possa prevalere. Mi spiace molto dare, cosa che non voglio fare, dare per spacciati i Boston Celtics in questa serie con Miami, ma fino adesso non vedo molte possibilità per aprire, per prendere un'inerzia da parte di Boston, al di là dei numeri, Flavio. No, però è anche vero che Miami è stata tutt'altro che convincente in gara 2, non solo perché ha rischiato di perderla, comunque l'ha portata ai supplementari. Bisogna vedere se questa serie si allunga. Se questa serie si allunga, anche se c'è il discorso del logorio fisico, ma tanto Boston non può essere più logorata di così. Se Boston vince gara 3 e dovesse vincere gara 4, poi per Miami diventa veramente, da un punto di vista mentale, una serie molto molto complicata. Però è vero che Miami, forte anche di quello che è successo nell'altra serie, credo che giocherà con le scarpe allacciate già a gara 3. L'ultima cosa che ti chiedo, Flavio, è un commento su questo boxino che leggo oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma notizia che saprai già, con una dichiarazione di Ettore Messina. Esperienza intensa, dice l'Ettore, esperienza intensa e con pochi momenti di allenamento in senso stretto, che mi ha dato comunque moltissimo a livello di confronto con gli altri tecnici e con i giocatori. Ha detto appunto Messina in un'intervista a Panorama: resterei volentieri ai Lakers, ma la voglia di tornare ad essere un head coach è forte. Ero partito con molti pregiudizi sul basket americano, ma mi sono dovuto ricredere. Secondo te è il preludio a qualcosa di diverso per Messina? Ma è il preludio al fatto che credo al 90%, per non dire al 100%, sarà un capo allenatore la prossima stagione. Dove, come, in quale continente, credo che serva ancora qualche giorno per stabilirlo. Più che possibile che sia l'Europa, ma non è necessariamente scontato. Però al di là del futuro di Messina, credo che le ultime parole siano importanti. Mi sono levato alcuni pregiudizi. Insisterei sulla parola pregiudizi. Non vuol dire che allora l'NBA è tutta perfetta. Però in Europa ci sono dei pregiudizi sull'NBA che nascono solo e solamente dalla mancata conoscenza di certi meccanismi. Aver messo uno dei nostri all'interno, secondo me, può aiutare tutti. Grazie Flavio, un abbraccio. A voi. Ciao Flavio. Grazie a Flavio Tranquillo. Comunque il futuro immediato di Messina è l'Olimpiade, perché commenterà per Sky il torneo olimpico di pallacanestro. Apro e chiudo la parete. Futuro immediato. No, hai fatto benissimo. Futuro immediato da commentatore, ma poi futuro un po' più lontano, come lo vedi? Ma anch'io credo, fatta questa esperienza, che l'Europa lo attiri, però deve arrivare la richiesta giusta qualche tempo fa. Tu escluderesti una panchina NBA adesso per Messina? Mi sembra sinceramente un po' presto. Dipende però da che offerta arriva dall'Europa. Nel periodo della Final Four di Istanbul si parlava del Fenerbahce per lui, e mi sembra che il basket turco sia quello che offra un po' più di garanzie, e che abbia bisogno proprio della presenza di un personaggio di Messina per passare dal ruolo di fantastici outsider al ruolo di squadre vincenti. Sì, però anche perché con la situazione economica anche dei club europei non sono molte le posizioni, cioè tolto il CSKA, dove è già passato, tolti Barcellona, Barcellona, Real Madrid, per ovvi motivi, dove è già passato, eccetera. Non è che ci sono tutti questi club. Probabile che si apra la panchina al Panathinaikos, che pare che Obradovic abbia chiuso la sua esperienza. Quando ha giocato gara 4 vincendola contro l'Olympiakos, ha detto: probabilmente è stata la mia ultima partita giocata ad Oaka da allenatore del Panathinaikos. Quindi si apre questa porta, però sappiamo benissimo, insomma, qual è la situazione in Grecia. Quindi credo che la voglia per Messina ci sia anche di tornare, comunque di avere in mano una squadra in cui possa fare veramente l'Ettore Messina, ma che al momento questa squadra non ci sia ancora. Jerry, torniamo per chiudere, visto che abbiamo ancora praticamente un minuto, all'ipotetica finale tra Milano e Siena. No, quello che ti volevo dire è che sarà comunque secondo me, ripeto, un grande confronto tra panchine, perché Pianigiani non lo mette in discussione nessuno, né l'ha mai fatto. Scariolo è stato pesantemente in discussione a un certo punto della stagione, soprattutto dopo la sconfitta con Cremona, che ha aperto poi questo filotto di 13 vittorie. Però è stato molto criticato anche dal punto di vista della gestione della squadra. Sì, sì, non c'è dubbio. Pianigiani ha fatto il consueto capolavoro, perché non dimentichiamoci, la stagione di Siena è stata contrassegnata da infortuni pesanti, da un'idea di squadra che era cominciata con Summer, cioè con un'ala piccola di peso, grossa, e poi è andata avanti con Rakocevic. Ha dovuto fare, come ha fatto anche negli altri anni, dei cambiamenti in corsa, gli sono riusciti molto bene, sia in Italia che in Eurolega. Scariolo ha confermato, secondo me, una delle sue caratteristiche, cioè di arrivare molto in forma quando conta, quando arriva il momento che conta. Quando ha vinto in Spagna ha fatto sempre così, difficoltà nella stagione regolare, poi dei grandi playoff. Lo ha fatto, secondo me, un po' anche con la nazionale, soprattutto agli europei, quelli di Polonia, era partito molto male e poi è arrivato molto bene. Ha questa grande caratteristica, secondo me, la capacità di far capire ai propri giocatori di avere pazienza, che le cose stanno, anche quando non vanno bene, potranno andare meglio. E poi sono due, secondo me, allenatori dal forte impatto mediatico, emotivo, e sarà, come dicevo prima, saranno dei bei confronti anche a potrebbe, palla ferma. Potrebbe essere una grande finale. Potrebbe essere una grande finale, ma sarà magari fra Sassari e Pesaro. Sarà magari, naturalmente. Grazie, Gere, sempre un piacere. Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia. Ci sentiamo domani dalle 4 alle 5 con lo sport. Ciao a tutti.